música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole música de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol. Tu figlio vedi dalle 17 su 87 e 9 di Radio Onda Rossa. El pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tutti Frecuencia de Radio Onda Rosa. Bentrovati alle 17.04 minuti a quest'altra puntata dell'Esquina del Sol. Io e i miei muchachos. No, una cosa che se può sentire. Buonasera. Ma sì, tu lo puoi dire, Marco. Vabbè, dai, così per giocare, no? Né mi offende né mi fa niente, mi piace. Dai. Sei il tuo muchacho pure. Buonasera a tutti e tutte. Che professionali. E dopo la sigla 17.06. Mamma mia, cominciamo a fare progressi, eh? Pian pianino. Secondo me il sole aiuta. Ci dobbiamo abituare noi, dobbiamo abituare agli ascoltatori e alle ascoltatrici a dare una forma, a dare questo, una puntualità mai inglese. Perché mai. Siamo mediterranei, latini, no, però pian pianino ci abituiamo. Poi non possiamo, sai, noi siamo italiani, non potremmo fare niente d'inglese. No, infatti, anzi, io ringrazio di essere... un saluto al nostro compagno che invece ci fa delle mitiche trasmissioni sulla Brexit. Non finirò mai di ringraziarlo perché comunque c'ha veramente un umorismo che casomai è molto nostro, mi sembra. L'altro giorno ha fatto così, ci ha sbragato Sting, ci ha fatto sta lista di artisti di destra. Grande, veramente grazie. Sì, ascoltatelo, certo. Tra l'altro, mercoledì. Bene. Ciao a tutti, ciao a tutte. Saluto la mia mamma che ascolta dal Cile. No, chiamo... signora! Come si chiama tua madre, Anna. Victor? Ana, doña Ana, usted me mandó su hijo fue para mí, la magia me cayó en el momento exacto que se necesitaba, así que quédese tranquila, lo cachoteo yo. Gracias Ana por aver traído al mundo a Victor. Un gracias. Ringraziamo Ana per aver partorito questo ragazzo. E tra tanti ringraziamenti è inutile che ci prendiamo in giro, insomma, con i brividi sulla schiena e il sole, io mi sento di voler fare un saluto a una donna mitica che io non conoscevo benissimo, nel senso che non era proprio una mia amica, c'erano sempre quei 10 anni, quei 3, insomma, quei un po' di annetti di differenza, che era però sicuramente una persona che io conoscevo e stimavo molto, perché era una di quelle ombre di questa città che però a questa città regalavano tantissimo. Chiaramente sto parlando di Claudia Acciarino. Non sarà sicuramente la prima volta che ne avete sentito parlare, perché è stata una pezza per Roma, per l'underground romano, la sua perdita, perché oltre a essere una persona dolce e squisita, per quanto una vera punk hardcore nell'anima, era una persona di una dolcezza estrema e una persona a cui non interessava far sapere chi fosse. Si sapeva chi era per quello che faceva, non aveva... così, pretese di luci e di palchi. E quindi io in particolare la vorrei ringraziare, sperando che quella montagna sia stata la sua terra dolce, l'abbia presa nelle sue braccia, l'abbia accolta, l'abbia abbracciata. perché sennò veramente tutto diventa infinitamente più difficile. Allora voglio mandare in particolare un saluto al nostro fantasma 25 O'Clock, che hanno preso una pezza assurda, così come tante e tanti di voi che siete là fuori e che avete portato avanti questa scena punk HC underground, di cui vi ringrazio, mentre io mi crescevo i figli e voi ogni tanto mi regalavate un concertino. Stiamo tutti sotto una botta, so che anche Search and Destroy sul Radio Sonar ha voluto dare il suo contributo, il suo saluto, e allora, come ho scritto, che mille trasmissioni per Claudia suonino, che il noise conquisti questa città, e tu eri proprio un'altra di noi pirati, allora io te la voglio così, ti voglio mandare il mio saluto, ti vogliamo mandare il nostro saluto con Policarpa e su Viciosas, una de piratas. Insomma, quindi abbiamo fatto questo saluto, ma ecco, insomma, come si fa? È difficile a volte mettere insieme delle cose. Però indubbiamente, da madre, se c'è qualcuno che mi ha insegnato anche ad affrontare tante cose, queste sono le madri per Roma Città Aperta. Quelle madri incredibili che, insomma, sono un po' un faro caldo e pieno d'amore in questa tremenda città per noi che cresciamo e spesso abbiamo bisogno di fari luminosi e caldi a cui fare riferimento per crescere anche come madri. E allora, oggi è un compleanno potente, è il compleanno di Stefania, che io veramente voglio abbracciare in un modo veramente come se ti abbracciassi tutta, come se fossi una coperta che ti avvolge. Ti voglio ridare indietro tanto di quel calore che mi hai insegnato, che mi hai trasmesso tante volte, e credo che a questo compleanno a questi auguri si stiano unendo anche quelli di tante persone. Lo voglio fare perché probabilmente tu, insieme alle altre madri, ci insegni ogni giorno veramente tanto coraggio, tanta forza, tanto antifascismo, ma anche tanto sapere che, insomma, si va avanti nonostante tutto e la lotta si affronta a testa alta e più forti di prima. E nei momenti di debolezza, per fortuna, abbiamo questa rete enorme. Tu ci sei per me, io ci sono per te, e questo moltiplicato per noi diventa veramente la ricchezza più grande. E allora, Stefania, oggi c'è il sole, goditelo tutto. E eccomi a mandarti insieme a Rebecca Lane questa Mujer Lunar, che, insomma, tu sei molto terrena ma hai una forza veramente che arriva fino alla luna. Grazie e ti abbraccio, tanti auguri. así, así es como he vivido desde que mamá me parió a este mundo. Marcaron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía, no con cuentos de hadas ni en fantasía. Toda la gente es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Quepa duda que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada, una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema, y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada. Por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme. Con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Tu costilla, no vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz, cicatriz. Cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. mi sa che c'è una grande Poste cilena all'ascolto, tipo Vania, la Sofì. Ma la Extrema? Ma la Extrema mi gusta, ma la Extrema la quiero solo conocer, me recuerda a alguien. Sí, un saludo al tío Chino. Ay, el tío Chino, ese muchachito ya tío, iba a ser padre. Ay, sí, me siento tan... Sono belli nomi d'arti, ti direi, ma la Extrema, sí, el tío infatti. Chino. Sarebbero... Sembra i personaggi di un fumetto, però sí, insomma, sí, sí. Conoscendo te, tutta gente di un certo spessore. È magico. È magico, infatti. Quindi saluti a tutte e tre lì che ci ascoltano. Quindi saluti. Saludo. Fino al Cile, direi. Certo, certo di sì. È stato, voglio aggiungere questa minchiata. Vabbè, insomma, questa è così, non so. No, perché è stato, ora che ci abbiamo come sempre qua tutti i giovedì un argentino, un cileno, è stato Alberto Fernandez, il presidente argentino, che si dice di parola, ovviamente, diciamo, non simile, per usare un termine, a Piñera, però comunque va a Cile dopo, dai, grande Piñera, tutto bene, si se fanno i festini tra di loro, mano, ovviamente elogi di qua di là, però certo dopo lui va a, non so se era l'ufficio o il salone dove lavorava, dove c'era Allende, no? Quindi un po' questa bipolarità. Sì. Tutto bene con Piñera, vado a fare l'omaggio a Allende e così via, e resteremo sul Cile perché tra pochissimo ci mettiamo proprio nel contenuto della tocca fare una festa e per fortuna per una volta sì. In questo caso le novità sono positive perché parleremo del caso Cheu, che ce ne sono buone notizie, e niente, ne parleremo di quello, come purtroppo sicuramente ne parleremo di brutte notizie, perché quando si parla della repressione dello Stato del Cile verso il popolo Mapuche è così. Almeno ne abbiamo una buona, direi. Marta, dimmi tu se sei pronta, io so che sempre sei pronta, qualche brano per continuare a dare un po' di ritmo alla trasmissione, e dopo ci mettiamo col caso Ceuca, perché ci sono le novità e tu sai delle cose che sarà molto interessante. Ce ne sarà da ridere, sì. Vi farò fare così due ciniche risate, come sapete. Tanto insomma le persone di cui parleremo non sono qui, quindi per una volta non parlerò di un nostro processo dovendo pesare al milligrammo le parole. Io potrò da giù, perché è difficile che il procuratore mi denunci e poi facesse, tanto io sto di qua. Ci abbiamo il vantaggio che sicuramente non ci ascolta ora. Sicuramente non ci ascolta. Quindi, non credo. Ma che conoscendo anche la levatura del vostro ambasciatore, che veramente ha fatto mostra della propria infamità, ecco. Gli infami stanno ovunque, questo lo sappiamo, però credo che con querele non ne prenderemo perché... No, infatti, quindi insomma vi racconterò un po' di cose, allora io direi che insomma sarebbe sempre quella che così, con delicatezza e femminilità ci fa accendere la miccia, non so come dire. Andiamo. Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito donde sea, una velita, así que bueno, fíjate bien que querés quemar. Movimiento social desde abajo, pido la protección y pegarle al pueblo mapuche tu visión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Muchacho Botella. Sì, questi saranno i tre minuti in cui noi vi sembreremo dei pazzi. Salut. Questa canzone dice: i proiettili che tiraste, che avete tirato, vi torneranno indietro insieme alle balas, io direi alle balle, i montaggi, le accuse infami, no? E false, il silenzio. Tutto tornerà indietro. Tutto tornerà indietro. E intanto noi insieme a voi speriamo di veramente brindare. Salut. Salut. A Maurizio Ceuche, libero da ieri dopo 14 mesi di infame, ma infamissima detenzione domiciliare. E allora così facciamo ancora una piccola macumba alle guardie del mondo e poi torniamo in voce a raccontarvi un po' quello che abbiamo visto. Para así cuidarle el negocio al patrón. Y todos juntos cantamos. Ya van a ver. Ustedes. Ya para que vos tirarle van a volver. Y otra vez. Ya va. Beh, sarebbe divertente che un po' di quello che hanno fatto a Maurizio Ceu che gli tornasse indietro, eh? Allora, insomma, ve ne abbiamo parlato per circa tre puntate di seguito, ormai sapete pure, insomma, i nomi delle figlie di Maurizio, credo, ma era necessario perché la storia di Maurizio è veramente emblematica di quella che è la repressione quando si unisce nell'essere nemica del proprio popolo e ancora più nemica del proprio popolo quando il proprio popolo ha una discendenza indigena. Maurizio Ceu, che infatti era un operaio che viveva a Santiago, che andava a lavorare, però è un discendente indigeno mapuche, quindi ha un cognome Ceuche mapuche. Questo gli è costato che nel momento del suo arresto lui, che si trovava in La Victoria a bere una birra, venisse così, fosse vittima di un montaggio che, a leggere il suo cognome mapuche, gli dicevano: adesso tu sei di quel popolo che gli piace bruciare e adesso noi ti mettiamo una bella boccia dentro uno zaino, anzi ti diamo pure lo zaino, perché lui non aveva neanche quello. E la storia non ve la staremo a riraccontare, insomma lui ha rischiato di essere accusato per quasi 20 anni, con delle accuse che riguardavano non solo la detenzione di questa bottiglia, ma l'attentato che alcune persone a volto coperto avevano fatto alla commissaria della Victoria la mattina. Quindi diciamo che ciò che veniva, diciamo, la costruzione, il montaggio che veniva fatto a Maurizio non era quello semplicemente della bottiglia, ma la bottiglia era ciò che l'avrebbe fatto accusare dell'aggressione alla commissaria. Maurizio è libero, è tornato a casa ieri. Diciamo che in questo strano mondo che stiamo vivendo virtuale, per assurdo ho potuto partecipare all'udienza del processo di Maurizio, che è stata venerdì, e anzi è stata martedì, perché ci si poteva partecipare tramite Zoom, e quindi noi abbiamo capito che la presenza in aula di persone che venissero da più lontano, senza bisogno che stessero fisicamente in Cile, poteva essere un vantaggio, nel senso che il giudice si trova un po' con l'obbligo, o comunque, se non è un obbligo, l'assunzione di responsabilità, a negare la partecipazione pubblica alla giustizia, che insomma anche in Cile ancora è pubblica. E quindi diciamo, l'udienza prima di quella a cui io ho potuto partecipare, so che alcune persone olandesi, rappresentanti dei diritti umani, quando sono entrate nel Zoom gli è stato chiesto chi fossero, e al sentire che insomma c'erano degli olandesi europei appartenenti a delle associazioni dei diritti umani, comunque meglio esserci che certo, non esserci, no? Certo, infatti con questa mente colonizzata che abbiamo in Sud America, certo, se ti guarda qualche ONG, qualche collettivo europeo occidentale, lì anche i giudici, non ti dico che si spaventano, ma sanno che prendono più cure delle forme, sicuramente, no? Ed è quello chissà che devono dire. Ricordano anche delle tanti trattati internazionali che il loro pince paese. Forse in quel caso sì, si ricordano tutti i trattati che in caso di Cile, no, in Argentina. Poi, cioè, Olanda, Netherlands, AIA, diritti umani. Dopodiché è chiaro che io pure, quando sono entrata, sono stata ricevuta dallo Zoom da una segretaria che intanto stava parlando tipo di ricette da cucina con l'amica sua, e quindi io sono entrata, stavo zitta, e a un certo punto quella fa: para, para, para, Doña Marta, Usted chi è? Quello ti volevo chiedere, scusa. Perché io sono entrata a Sabozzita e quella le decía: no, le chas, non so che, le chas tomate. Así, io mi stava zitta. Però è molto italiano poi, che il segretario si sia parlato alle lasagne, molto italiano, anche molto mediterraneo, molto latino, ecco. E quindi quando lei mi ha detto: guardi, mi dia il suo nome e cognome, mi dica l'associazione di cui, a cui appartiene, perché... E che hai detto, Marda? Perché io gli ho detto, io faccio parte della rete internazionale, dico, io sono un collettivo romano che è in Italia, grande, che appartiene a una rete europea, internazionale, per il popolo mapuche, ma che si interessa dei diritti dei popoli indigeni. Tiè. Se saremo imparati a dire due bucce o no, se siamo allenati tutta la vita, E quindi diciamo che poi, appunto, quando io sono stata ammessa, c'era il difensore che diceva: vabbè, ma tanto la giustizia è pubblica, quindi chi può dire cosa? Mi hanno chiaramente detto di tenere la telecamera e il microfono chiusi, e ho potuto partecipare a questo circo, perché ecco, è chiaro che si devo dire da 1 a 10 il livello della mia fiducia nella giustizia del mio paese piuttosto che del loro, qua insomma famo prima farsi una partita a scopa, dopodiché da qui a assistere a un processo devo dire che allora c'erano 3 magistrati, 3 nelle loro uffici a Zoom, poi c'era il difensore in aula con Maurizio. Un Maurizio che io ho percepito, allora intanto un Maurizio, avete presente i prigionieri di Guantanamo legati con le catene ai piedi che arrivano fino alle mani, quindi il detenuto è obbligato a camminare con queste mani davanti facendo dei piccoli passi. Beh, indubbiamente questo a me mi ha inquietato, insomma questo qui non si è mai visto, non si vede, io le persone legate così le ho viste vedendo i film dei schiavi afrodiscendenti oppure Guantanamo, non lo so. E so che comunque questa non è per legge il trattamento che si tiene ai prigionieri, molti prigionieri vengono legati solo per le mani, quindi queste sono tutte particolarità che vengono date poi a seconda di come si ritiene il prigioniero e che ai mapuche vengono dati quasi sempre. Quello che è successo è stato che a un certo punto non si trovava più questa bottiglia incendiaria, ma già dal giorno prima la compagna ci aveva detto, infatti ci aveva detto: partecipate, perché più siamo meglio è, perché faranno delle clamorose figure di merda. Questa bottiglia è sparita, la bottiglia che era stata registrata come la prova, fate conto 10-10-02 e lo zaino era 10-10-03. Non solo questa bottiglia è sparita, ma lo zaino è finito nella busta della bottiglia, quindi lo zaino ha avuto un cambio di numero di prova, quindi è palese che queste prove fossero false, e che non bastasse che fossero false, fossero state anche manomesse dopo essere state... diciamo, tra le persone che apparivano in video c'era anche questo carabiniero, allora, che io sinceramente non ho capito, nel senso, allora, era lì come testimone perché lui diceva di essere uno di quelli che avevano partecipato all'arresto, poi però non sapeva rispondere a una serie di cose in cui hanno detto: ma quando voi l'avete arrestato? Perché dunque Maurizio è stato investito prima e l'investimento gli ha causato una ferita su una gamba di circa 10 centimetri, bella profonda, si vedeva il muscolo. Maurizio non è mai stato curato, è entrato in carcere con questa ferita, la ferita gli si è infettata, lui ha avuto la febbre, nessuno gli ha dato niente, a curarlo sono stati gli altri detenuti con delle erbe, delle cose che avevano da chi gli porta il pacco da casa, e il carcere non gli ha dato niente, quindi diciamo che Maurizio ha rischiato la vita, perché comunque ancora aveva questa, insomma, da poco gli si era chiusa questa ferita, ancora dice c'è un segno. E questo poliziotto non sapeva rispondere se fosse ferito o no, quindi poi ha dovuto dire la verità, ovvero che lui aveva osservato l'arresto dal vetro della macchina. Perché a priori, scusa, sarebbe stato il poliziotto, il carabiniero che non solo lo ha detenuto, ma anche che a breve, e dico a breve per quello che capisco della situazione, che avrebbe preso, perché lui ha perquisito. Sì, perché lui, per fare il carino, lui ha detto: noi quando ci siamo accorti che l'abbiamo investito siamo tutti scesi di corsa preoccupatissimi. Certo. Perché non è che quello può dire: abbiamo investito sto pezzo di merda, magari l'ammazzavamo. Quindi, e quindi il giudice, cioè, l'avvocato gli ha detto: scusi, ma lei non si è accorto che sanguinava? Perché erano 3 mezzi. E lui non sapeva come rispondere, fa: no, ma io non ero io direttamente, io l'ho visto dalla ventanilla del carro. E allora? E quindi già hai detto una cazzata. Poi diciamo, inquietante sti imbecille che non era capace di aprire una busta, cioè lo dovevate vedere, non era capace di aprire una busta, non era buono aprire una busta, carabineros de Chile, non è che le barzellette nascono a caso, ecco. E va bene, Risultato è chiaro che a un certo punto un'altra cosa che mi è sembrata strana, con tutto che io non sono sicuramente una specialista né di processi qui né lì, quando davanti a tali figure barbine, a tale palese manomissione delle prove, cioè c'era la magistrata che ogni tanto guardava per aria come a dei mali mortecci, mannaggia zozza, guarda chi ce l'ho davanti, cioè era una signora, guardava proprio come a dire, cioè, ma uno vi vuole pure difendere, ma siete buoni, manca fa per salvare, cioè una cosa inquietante. A un certo punto il fiscal, cioè il pubblico ministero, ha chiesto 5 minuti per consultarsi con la difesa, che è una cosa che mi ha fatto strano. Poi quando sono tornato in aula ha detto: io e il difensore abbiamo bisogno di un'ora di confronto prima della risoluzione del giudice. Difensore dei carabinieri, no? Non lo so, allora non lo so, sì, allora diciamo il difensore dei carabinieri è un militare che non ha detto nient'altro, cioè non ha aperto bocca, tant'è vero che l'ho capito dopo che quello era l'avvocato difensore del carabiniero, okay. Ma io credo che lui si sia voluto confrontare anche con l'avvocato di Maurizio, perché adesso io so che loro chiederanno una reparazione. Cioè tu ti sei fatto 14 mesi di gabbio da innocente, perché non è che a lui gli hanno dato una pena di 2 anni, poi siccome c'ha la prescrizione oppure la pena sospesa perché c'ha la pedina pulita, lui è stato assolto, è stato palesemente torturato, ferito all'inizio, e no? È chiaro che giustamente sì. La ora famiglia si è dovuta indebitare perché sono stati 14 mesi senza l'unica entrata del ecco. Sì, sì, dovrebbe andare avanti la famiglia, corrisponderebbe, uno pensa o dovrebbe, esatto, fare quella cosa. Quindi diciamo che è stato abbastanza incredibile vedere comunque di 3 magistrati che partecipavano nell'aula così questa vaghezza, e il fiscal con una cara è merda. Cioè, veramente abbastanza, insomma, da fastidio vederlo, una spocchia, cioè un senso del potere. La senso... famosa faccia di culo. Sì, nel senso che tu riesci a mantenere la stessa faccia di culo anche dopo delle palesi figure incredibilmente brutte, no? Quasi lui rideva come a dire, ma tanto a noi lo possiamo fare, cioè indubbiamente io l'ho percepita molto così. Rimane che se voi volete andarvi a vedere questo bellissimo momento sulla nostra pagina Facebook, che è su quella della coordinatore dei 16 ottobre, c'è questo momento di Maurizio che esce dal carcere, che devo dire è un momento che ci siamo voluti godere, che abbiamo aspettato, poi lui poi è uscito penso 5 ore dopo, che l'hanno assolto 6 ore dopo, perché il cui si è finito mi pare alle 2, e lui è uscito ieri sera tardi. E adesso è in libertà. E adesso è in libertà, oggi già ci ha mandato un messaggio per ringraziarci, e stasera ha dormito a casa sua, e questa cosa io sono felice, mi emoziona. Quindi una cosa positiva, perché non è sconfiggere, però vincere una piccola battaglia contro la stessa istituzione che giustamente sta contro il popolo mapuche, contro questa lotta, e non è poco, cioè si deve considerare nell'importanza, in tutta l'importanza che c'ha questa cosa, penso io, perché sappiamo cosa significano, il ruolo che svolgono le istituzioni di questo tipo, soprattutto in un contesto come quello del Cile, ma è importante quando si vincono queste piccole battaglie, è importante pure dimostrare la verità giuridica, come in tanti casi parlavamo, è importante, e per questo in Cile c'è una lotta importantissima per determinare e stabilire una verità simbolica, perché tante volte la verità giuridica, la verità delle istituzioni è sempre dalla parte proprio dallo Stato repressore, e quindi quando a volte si vince attraverso le forme delle istituzioni una piccola battaglia è veramente importantissimo, credo. Sì, questo questo senso di potere, perché i militari, i carabinieri, c'è la propria giustizia. Certo. Quindi lo che è successo con Camilo Catrillanca, per esempio, è che questi carabinieri che hanno stato colpevoli per uccidere al compagno, è perché hanno stato in mezzo della giustizia normale, regolare. Certo, la civile. La civile. Sì, sì, sì. No, e lo diciamo un'altra volta, lo ripetiamo, ma per farlo capire, i carabinieri in Cile godono praticamente un'impunità totale. È veramente lo Stato, direi, Victor, correggimi se non è così, se sbaglio, tutte le istituzioni stanno dalla loro parte, quindi esattamente. È importantissimo di nuovo il fatto di aver vinto questa piccola battaglia, che la verità giuridica sia stata che Maurizio Ceucche è libero ora, che doveva stare libero sempre e che anzi, spero io, a partire d'ora dovrebbe essere risarcito addirittura. Una cosa che, questo che parliamo dell'impunità, è che, per esempio, qua è il coprifuoco è uguale. La differenza è che, per esempio, per la notte, se tu vai in giro, per esempio, per Roma, sì, e ti fermano, ti dicono, aspetta, questo non è buono per te, e andiamo a fare in quest'ora dobbiamo fare... Facciamo una cosa, si fa, senza violenza, aspettiamo, perché non sappiamo, non si sa. Direi, però, non è scontato, però... Là sappiamo che per la notte, se ti fermano, ti ammazzano e ti lasciano nel mezzo della strada. L'altra notte, per esempio, una settimana fa, i militari hanno preso un ragazzo che camminava una ora dopo del coprifuoco e lo hanno ammazzato, gli hanno rubato le scarpe e lo hanno mandato via. Sì, così. Sì, sì, non si tratta di evitare, vabbè, anche se direi le polizie tutte sono ovviamente in ogni stato le forze repressive, però è vero, io posso dar fede perché in Argentina so che è uguale, quando non si rispetta il coprifuoco non è che la polizia, soprattutto la polizia di borgata, dei quartieri, della periferia della città di Buenos Aires, fa, diciamo, il loro lavoro amministrativo, quasi che dovrebbero fare. Allora, raga, il coprifuoco è una cosa che si fa in stato d'emergenza. Ahimè, nelle epoche precedenti a questa nostra assurda epoca storica, il coprifuoco si faceva perché il nemico t'aveva preso la città. Il coprifuoco lo facevano i tedeschi, no? Si faceva in momenti in cui comunque te passava la fantasia un po' di uscire di casa. Sì, una roba di quei contesti. O comunque lo metteva qualcuno che tu sapevi che se te piano te sparano. Allora, probabilmente uno doveva pretendere che una misura che tu prendi in stato d'emergenza, questa è un'emergenza sanitaria, non è che c'hai i nazisti che volano in alto nel cielo, quindi se mi spari io te sfonno, perché tu se trovi mio figlio dopo mezzanotte lo devi mettere in macchina o lo devi portare a casa, non che gli spari. In una situazione come questa non c'è altra opzione, sì, non ce n'è. Per questo, per la liberazione di tutti i prigionieri stiamo parlando con questa sezione di La Schiena del Soul. La Schiena del Soul. Grande, quindi contenti veramente per... Contenti, poi soprattutto devo dire che credo che appunto Jocelyn, che è la compagna di Maurizio, parlava anche de lei che vuole la riparazione del trauma delle sue figlie, della solitudine delle sue figlie, della paura di sentir parlare del loro padre come un assassino invece di averlo sempre visto andare a lavorare. Questa è una cosa che a me mi fa incazzare, non è possibile, insomma, e che quindi e soprattutto che lei è così, voglio dire, secondo me appunto loro non erano proprio una famiglia di militanti, che lei ha detto adesso io non lascerò solo nessuno. Lei ringraziava le organizzazioni, la 18 ottobre, la Comedora, l'Assemblea della Vittoria, los amigos y parientes de los presos, perché sa che senza di loro non sarebbe successo niente di tutto questo. E quindi lei adesso dice, adesso andremo avanti, no, è finita, c'ho mio marito a casa, ciao. Noi adesso continueremo, perché sanno che nessuno lo conosco, ma questa esperienza mi ha fatto imparare cosa sta succedendo. Che quindi Maurizio l'altro giorno, chissà, così non fosse sparita la bottiglia, non si fosse rotta e qualche imbecille non avesse buttata, non avesse fatto quelle cazzate, Maurizio si era preso 25 anni di galera. Stiamo parlando di questo, si era preso 25 anni di galera per non aver fatto nulla. Sì, questa è un po' la morale di questa bruttissima storia, che almeno servono per risvegliare la coscienza di tante persone, perché fa bene la famiglia di Maurizio ad andare avanti. Faccio una cosa, forse prima di ascoltare una canzone per chiudere questo blocco, faccio una cosa che non dovrei fare, però tra di noi, questo resta tra noi tre. No, dovremmo, perché so che lo potremmo fare, sarebbe interessante parlare con l'avvocato della famiglia Ceucche per giustamente conoscere come ora, con l'appoggio di tutti i collettivi, tutti i compagni e le compagne, come andranno avanti attraverso le istituzioni, perché è quello che corrisponde e per cosa chiederanno risarcimento, per il quale sicuramente hanno diritto, e perché credo che sia sempre interessante sapere come, insisto, combattere alle istituzioni con i loro modi. Dobbiamo essere sempre più furbi del nemico, quindi questo è importantissimo e la butto così. Dovremmo, si potrebbe, sarebbe interessante perché credo che con dei contatti attraverso le compagne e i compagni potremo arrivare, sarebbe interessante che ci racconti tutto questo che stiamo parlando un po' noi, perché también como es posible. E infatti, visto che per noi non è proprio semplice da capire, per questo dico, tutte queste cose che noi stiamo parlando o che proviamo a farvi capire, sarebbe interessante che un avvocato che sta ovviamente lavorando per la famiglia di Maurizio Ceucche ci dica come lui svolge il suo lavoro per trattare di giustamente, attraverso le forme che lo Stato ci dà, di essere più furbi ancora di loro. Questa è la buona notizia, diciamo, della trasmissione. Purtroppo le brutte notizie ci stanno pure. Ce ne sono ancora tanti, ve lo ricordiamo, sono circa 2500 detenuti e detenute che della rivolta. Noi non lasceremo indietro nessuno, sebbene poi è difficile occuparsi di tutti e tutte, è vero che noi, insomma, le emergenze che abbiamo sono quelle che ci segnala appunto la coordinatoria del 16 ottobre, e in questo caso dopo la musica parleremo in particolare dei prigionieri politici della rivolta del carcere di San Antonio, che sono quelli che a più breve scadenza avranno l'apertura delle loro, così, l'inizio dei loro processi, e quindi anche lì sarà da tenere alte le antenne. E allora un bel maricciueo anche per la famiglia di Maurizio, Jocelyn e le loro figlie. Film on MPG le will a well famous thing again que you babel where to buy gimon hago tu il con nye we la ilel fun we nyan que li bo you we luki nyau que le in we lu yi ka que la in ta in ku me fucha ma humon en we nyen man ein ta mon koi la nutram fe yen tu we la in famous a fil que mol fun mo mai trepe le va in. Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco suelta en el piquete para la represión. Políticos corruptos se arreglan los picotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad, basta de montajes. Digan la verdad, la calle reclama. Un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera apenas suena la alarma. Marmo del libro, me libro de armas. Cuántos heridos de bala van y nadie hace nada, pero se pueden gastar en granadas, armas y tanques. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca al rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará esta voz. Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás así lo hicieron, igualmente venceremos. Uniéndonos por hacer valer todos nuestros derechos. Con el lenguaje de mi bloque, en cada mar hecho me desplazo. El sonido del cultura, tu bruca, la pifilca y el cacerolazo. Por aquellos que pusieron su pecho resistencia en contra de balazos. Siente como flamea mi bandera, sangre lucana en la que corre por mi pena. Morí luchando, agarra fuerza y resistencia hasta tener el último aliento para que tomen conciencia. Una vela por cada detenido desaparecido y que se escuche fuerte, el pueblo unido jamás será vencido. Si uno se cae, diez se levanta a luchar. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. Paz para todo Chile, para mi pueblo deseo. Amula, peta y huechana, marichi huevo. Se cierran mis luceros, gritos desgarradores de mi entorno. Paren, por favor, no quiero. Hey, señor, ¿por qué prende fuego? Los sueños han vuelto cenizas, ¿por qué nos defendemos? Si me escuchas, yo te revelo. Mientras me abusan, qué injusta la vida, en serio. Desde mi tumba esto se ha vuelto un cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía. Y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía. 30 años suficiente para aguantar su tiranía. ¿Y cómo es que quieren asesinarlo todo? Pero no contaban con que el trono se derrocó, porque andonó los ojos a la lucha. Lo que la trupe anuncia es crucial, me jura triunfar. Y que se logra juntos, juntas, a pulso sumar un justo fruto de paz. De esto te aseguro, de esto te aseguro. Iremos todos juntos y habrá paz, mucha paz. Quiero bien cerca a mi hermano y que ni uno se pierda. Nada de esto será en vano, pagarán su crueldad. Derribaremos cada una de esas mentes tercas. Conseguiremos libertad cuando entren a la celda. Mientras avanzan con su vida, la nuestra postergan. Enumeramos cada una por si no te acuerdas. El pueblo despierta. Ahora o nunca, este es el momento. Con la fuerza de mi barrio y de mi pueblo, logremos que los que no entienden, entiendan. Porque Chile, mi hermanito, no está en guerra. Hasta que la dignidad sea costumbre, dame tu mano que aquí nadie se hunde. Porque Chile finalmente despertó. Oh, oh, oh. Porque Chile finalmente despertó. No veo soluciones, solo escucho murmullos. Es que yo ya no creo en políticos surullos. Y solo están velando por los intereses suyos. ¿Y qué queda pa' mi gente? Somos los mismos que tratan de delincuentes. Pero estamos en la calle, cada vez sonamos fuertes. Por lo que estamos y por lo que le dieron muerte. Gente inocente, yeah. Van a tener que aguantar la presión. Van a tener que aguantar mi canción. Van a tener que tomar la decisión. No pueden separarnos porque somos la unión. Marici Hueo, questa casa parlante, insomma, ormai avete imparato a conoscerla. 17:54 minuti, chiaramente, come non fare un saluto alla nostra compagna Geri, che tra l'altro appunto tornerà nella sua terra. Io ti mando un abbraccio enorme. Allora, è proprio di San Antonio che stiamo parlando, di questo porto sul mare, che è stato un altro popolo, un altro paese in rivolta, un'altra città in rivolta. E allora, tra circa 12 giorni, se non mi sbaglio, il 12 febbraio, ma non vorrei sbagliarmi, o il 16, ci sarà appunto il processo per i prigionieri politici di San Antonio. Vogliamo ricordare i loro nomi, Victor? Ti suona il nome Claudio Bravo? Però non è il portiere. È il compagno prigioniero che adesso sta insieme a Giordano Santander, Patricio Alvarado. Alvarado. E Jorge Hernández. E Jorge Hernández. E, allora, diciamo, la loro situazione è un po' complessa, noi avremo tempo la prossima trasmissione di approfondirla, ci faremo aiutare, insomma vi racconteremo quali sono i loro processi. Di loro chiaramente potete leggere sulla nostra pagina Facebook Rede Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche o sul nostro blog, a cui appunto dalla pagina Facebook arrivate facilmente. Cosa dire, anche questa è insomma, noi siamo riusciti ad avere dei contatti con mille difficoltà e è disarmante veramente il coraggio e il forza che ci arriva da dentro quelle celle strapiene e in momenti di paura e terrore, non solo per la detenzione ma anche per una mancanza di contatti con l'esterno. Insomma, voi sentite qua delle potentissime trasmissioni sul carcere, tutte le misure che vengono prese qui vengono prese più o meno in tutto il mondo nello stesso modo, quindi nessuno si occupa della salute dentro le carceri e nessuno si occupa neanche del fatto che i detenuti ormai da più di un anno siano senza colloqui di nessun tipo, senza incontri dal vivo, insomma, e colloqui. Nonostante questo, in particolare Claudio, a cui appunto con cui siamo riusciti a entrare più in contatto come rete, ha avuto anche il coraggio di denunciare una questione un po' particolare, insomma, che credo che sia la dimostrazione proprio della voglia di lottare che rimane anche dentro il carcere, che nessuno di loro perde. Quindi che succede? Chiaramente tu vieni arrestato, vieni messo in prigione preventiva e c'è una polizia speciale che si chiama la PDI, che noi nominiamo spesso, cioè la polizia di indagine, di investigazione, che è quella che è appunto responsabile della indagine, appunto. Quindi tu sei in carcere di prigionia preventiva, intanto quelli stanno indagando su di te e si suppone che vanno a chiedere alla vicina piuttosto che nel luogo dove sei stato arrestato se qualcuno ha visto qualcosa. Invece che succede in questo caso? È successo che quando hanno preso questi compagni l'hanno torturati a tutti questi gruppi di quattro ragazzi. E in questo caso di tortura adesso c'è un processo giudiziale. Quindi la PDI deve indagare in questo caso di tortura sui propri casi di tortura. Sì, o sea, quindi gli stessi torturatori arrivano con i torturati per fare la domanda. Tu adesso devi dire qualcosa ha successo. Cosa è successo? Chi ti ha torturato? E tu possibilmente hai davanti la stessa persona. È una revittimizzazione. O comunque il collega di qualcuno che ti ha torturato. È una cosa terribile perché tu ti ricorda di tutto, di tutta questa sensazione di paura, di impotenza. Perché è la stessa persona che ti ha torturato. Sta in fronte di te, quindi che cosa devi dire? Il compagno Claudio Bravo, leggerò adesso in spagnolo, mi scusi, ha detto questo: la PDI nos viene a visitar para investigar las torturas que ellos mismos nos hicieron y que además son mandados por el mismo fiscal que investiga nuestro supuesto delito y lleva el caso de torturas. No les puedo dar declaraciones después que nos hayan amenazado de muerte, nos hayan golpeado, me hagan temer por mi vida aún saliendo en libertad y que estando acá preso también debo cuidarme por favores que tienen entre delincuentes. Ustedes son incompetentes ante esto y judicialmente es irregular. Esto ha escrito el compañero Claudio Bravo. Allora, questo Claudio lo ha scritto pubblicamente sul proprio profilo Facebook pubblico. E insomma è una cosa forte perché in parte sicuramente lo farà per mantenere un minimo di possibilità di incolumità, nel senso io ve l'ho scritto qualsiasi cosa accada. Che cosa diceva appunto? La PDI ci viene di fronte alla denuncia per le torture, cioè noi siamo dentro per gli scontri, di fronte alla denuncia per le torture la stessa PDI che ci ha torturato viene mandata dallo stesso pubblico ministero che ci ha arrestato per la rivolta. Lo stesso pubblico ministero ordina alla PDI che ci ha torturato di venire a indagare sulle torture che loro stessi hanno fatto, quindi chiaramente per me sarà impossibile lasciare delle dichiarazioni. Non posso, cioè io sono privato della possibilità di lasciare dichiarazioni perché loro devono fare i loro giochetti tra delinquenti. Mi sembra che sia più che chiaro. Insomma, noi non possiamo che pensare che ci sia, insomma, una grossa tenacia, no? Una grossa forza, perché comunque questi compagni poi sono insieme, immagino che insomma parleranno molto, che condividano anche la forza ma anche la paura di sapere di stare poi nelle mani di un nemico che afferma di essere lo Stato di diritto e la giustizia. Questo per dire che appunto questi saranno i casi che noi la settimana prossima cercheremo di affrontare in maniera più approfondita. Insomma, sono anche qui per tutti richieste di anni di galera mai sotto i 10 anni. e capiremo perché tutti questi compagni sono incensurati, non perché se avessero dei precedenti per noi sarebbe diverso, ma perché questo per fare capire che cosa significa anche un estadillo social, svegliarsi, prendere coscienza, no? Prendere coscienza di che significa diventare una persona politica e andare col proprio popolo in una strada che ormai si è deciso di percorrere insieme e non smettere mai di rivendicare neanche nel momento in cui veramente ci si trova in una situazione di vulnerabilità, devo dire, non indifferente. Sì, adesso possiamo fare un saluto. Un saluto. Sì, sì, insomma, sono le sei, noi oggi chiuderemo perché poi andremo a parlare così, andremo in Grecia, chiuderemo un po' le schiena del sole e smetteremo di parlare. Però io credo che da Radio Onda Rossa, anche come rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, vogliamo mandare un saluto proprio a pugno chiuso, un abbraccio fortissimo, torneremo a parlare di loro, a Jordano Sanander, Patricio Alvarado, Claudio Bravo e Jorge Hernández. Dale muchachos, estamos con ustedes. Salutiamo a tutti e tutte i prigionieri politici della rivolta e prigionieri politici Mapuche. Marichi huevo. Marichi huevo. E allora io direi di andare avanti con un po' di musica, no? Maestro. Eccoci. Ascoltiamo La carcere di Gilda per fare come la pulizia quando uno si mette questa musica per pulire le case. Ai, che bello questa musica. Carina però Gilda che parla con questa voce suave della carcel. Mo me ne sono persa perché qui intanto facciamo cose, ma la devo ascoltare attentamente, eh? E adesso? Questa è una canzone romantica, così come che questa sarà la tua carcere. Ah, cioè, via, vive con me che sarà il tuo carcere. Così, una maniera romantica di decostruire l'amore romantico. E di vendere la musica, perché si vende molto questa cosa dell'amore capitalista. Sì. Che allora noi invece. Però Gilda c'è anche il cuore valeroso. Come si dice? Valiente. Corazón valiente. Corazón valiente. Dale, perché tengo corazón valiente. Sì, la so. Mo ce la cantiamo. Dai. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa. Aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Que te amaba, y lloré en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Minuti, mamma mia, con regista come riusciamo a essere puntuali, incredibile. Un'altra cosa. Allora, insomma, torniamo, ve l'abbiamo detto, insomma, abbiamo chiuso con i prigionieri politici del Cile, di San Antonio, però come vi avevamo annunciato, oggi avremmo fatto un giro ampio, anche stamattina avete sentito parlare di Grecia, sapevate, insomma, avete saputo anche da questi microfoni della chiamata che c'era sotto l'ambasciata greca. oggi, perché c'è un allarme forte per chi non ha mai sentito questa storia, che invece dura da tempo, per chi invece da sempre è accanto a Dimitri. Stiamo parlando di Dimitri Kofundinas. Noi siamo qui con una compagna, insomma, perché vi rimanderemo un po' tra breve, appunto dopo la telefonata, la registrazione, la replica della trasmissione fatta a Radio Cane, dove appunto si racconta un po' meglio la storia di Dimitri, la lunga e devo dire appunto pesante storia anche carceraria di Dimitri, e come si è arrivati a questo allarme che appunto è di Dimitri, ma che si porta dietro insomma tanti e tante. Allora, intanto grazie per essere qui con noi. Allora, intanto raccontaci, partiamo un po' da oggi, come è andato questo presidio in questa strana epoca storica. Ciao, allora un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Allora, sì, si è concluso da poco il presidio che si è svolto di fronte all'ambasciata greca qui a Roma. C'erano diverse solidali e solidali che hanno appunto raccontato, hanno gridato, hanno, diciamo, esigevano il trasferimento e l'accettazione delle richieste di Dimitris Kofundinas, appunto come dicevi tu, detenuto da ormai oltre 18 anni, membro del 17 novembre, un'organizzazione attiva in Grecia dal 75 fino al 2002. Dimitris appunto è un compagno che è entrato in sciopero della fame l'8 gennaio di quest'anno, chiedendo appunto che venisse applicata una delle leggi che lo Stato greco aveva, diciamo, predisposto ad hoc esattamente per quelli che sono i cosiddetti prigionieri speciali o prigionieri di lunga data, appunto, che non potessero più godere di un regime appunto nel quale si potessero trovare in carceri agresti, ovvero carceri che gli permettevano anche di poter stare all'aria più tempo, di poter lavorare e quant'altro, ma di essere immediatamente trasferiti in quelli che sono le ultime carceri dai quali, nei quali erano stati. In questo caso, per quanto riguarda Dimitris Kofundinas, era il carcere di Atene di Korydallos. Cosa è successo? È successo che nel momento del suo trasferimento, invece che nell'ultimo carcere dove si trovava, è stato deportato, letteralmente deportato e sequestrato, è stato portato nel carcere di Domokos, carcere aperto alcuni anni fa quando si cercava di far passare delle leggi che approvassero i carceri speciali. È stato appunto detenuto, è stato appunto portato lì falsificando i vari documenti, falsificando dei documenti, dicendo che era già stato previsto preventivamente un suo trasferimento poi nel carcere di Domokos. Quindi Dimitris Kofundinas è entrato in sciopero della fame chiedendo semplicemente che venissero diciamo rispettate le loro leggi. Questa cosa chiaramente ha fatto sì che lo Stato invece, che vuole appunto una vendetta contro di lui, non accettasse nulla. Ormai con oggi al 29° giorno di sciopero della fame e si trova in un grave stato, diciamo un grave rischio di è veramente fra la vita e la morte in questo momento. Questo non tanto per fare un discorso di quanto possa essere più o meno grave la situazione, ma è stato uno dei motivi che ci ha spinto oggi a trovarci sotto l'ambasciata greca. Sì, tra l'altro io immagino che anche la comunicazione rispetto alle sue condizioni non sia semplice, appunto narravamo quanto in questa situazione di emergenza sanitaria sia ancora più difficile poi far uscire anche semplicemente le condizioni umane in cui ci si trova, no? Quindi ecco, credo che abbia ancora più senso che si alzi un po' l'attenzione, che si impari la storia di Dimitri per chi non la sa, che si comincia a vedere come questi siano sistematicamente, forse adesso più che mai, no? Perché non che ci siano non che siano delle novità, però siano veramente delle vendette specifiche, no? Veramente un po' degli accanimenti, ecco. Non so io se ci vuoi dire qualcosa, adesso noi manderemo appunto la replica di questa trasmissione. Che... in questo caso pretende da, diciamo, da Dimitris o che venga chiesto il perdono o in alternativa la, la sua morte. Chiaramente in varie parti della Grecia si sono tenute, si stanno tenendo manifestazioni e azioni in solidarietà con lui. Chiaramente è una situazione molto complessa, in quanto in Grecia hanno imposto un coprifuoco che va dalle 6 del pomeriggio con praticamente eserciti spianati nelle strade, e con chiunque provi a percorrere quelle strade si trova a dover pagare multe salatissime, piuttosto che appunto essere fermato, trattenuto, e si appena trovano una qualsiasi, diciamo, motivo tratto in arresto. Quello che ci riportano dalla Grecia appunto è un clima che sta iniziando a essere molto simile, diciamo, a uno stato di polizia che sta è molto simile a quello che è accaduto durante, diciamo, il periodo dei colonnelli. Questa è una cosa che sta allarmando molto tutte e tutti i compagni che si trovano, diciamo, in questo momento a lottare, a essere per le strade, non ultimo ieri in una delle varie manifestazioni che ci sono state, anche il solo fatto di aver aperto uno striscione in 9 persone di fronte alla Sintagma, una delle piazze di Atene, ha portato all'arresto appunto di queste 9 persone. Allora, io torno a ringraziarti per l'aggiornamento. Non so che altro, noi chiaramente terremo alta l'attenzione su quello che accadrà a Dimitri, sulle iniziative che ci saranno, e appunto noi manderemo adesso quest'audio che dura circa 20 minuti. Non so se ce lo vuoi un po' introdurre, anche se, insomma, poi come abbiamo detto è un po' snocciola con un po' più di calma la storia di Dimitri e come si è arrivati a questo out, perché poi sembra essere molto così, no? Questa sfida a dire o chiedi perdono o sarai condannato alla tua scelta politica, no? Di coerenza, perché poi è così, e quindi così, questo modo di dare questi out che abbiamo visto anche poi nella storia ricorrono, e sicuramente sono una delle armi più infami che si ha davanti a persone che appunto poi fanno una così una carcerazione così politica, ecco. E quindi non so se ci vuoi dire altro. Questa, insomma, l'audio è di una trasmissione che è stata fatta a Radio Cane, non so se ce la vuoi introdurre oppure, insomma, semplicemente la mandiamo. Sì, sicuramente, diciamo, quest'audio che adesso andate a sentire di Radio Cane un poco inquadra qual è il quadro, qual è la situazione e chi è appunto Dimitris Kotsoudinas, per chi non lo conoscesse, o comunque per poter approfondire un pochino di più che cos'è questa organizzazione, che cos'è la sua figura e appunto il suo ruolo. Quello che voglio dire appunto che è un audio che è stato registrato già ormai qualche giorno fa, in cui ancora lui non era stato tradotto in ospedale. Quello che sta accadendo adesso appunto è che lui si trova in un ospedale, l'ospedale della Mia, che è appunto una città appunto vicino al carcere di Domokos, questo carcere che diceva appunto un carcere di massima sicurezza, che tra le lotte degli anni passati, di pochi anni fa, hanno fatto sì che non potesse trasformarsi in un carcere speciale, che non esistessero un regime speciale per i detenuti politici rispetto ai cosiddetti detenuti, diciamo, comuni, anche se non amo utilizzare questo termine. Certo. Quello che è sicuramente importante è continuare a mantenere molto alta l'attenzione rispetto a quello che sta accadendo. Non ultimo ieri oltre 170 medici hanno mandato hanno fatto delle comunicazioni al governo e al Ministro della Salute, nonché pubbliche, chiedendo appunto che lo Stato non continui, diciamo, a torturare in questo modo appunto un prigioniero, e quindi appunto richiedendo che venga immediatamente accolta le sue richieste, che non è nient'altro l'applicazione delle loro leggi. Per cui appunto, diciamo, che il mio invito è appunto che tutti e tutti siano attenti, che possano solidarizzare in tutti i modi possibili, che sicuramente possano continuare a far circolare, diciamo, la voce, le informazioni, così come state facendo voi da questa radio. Va bene, ti ringrazio ancora e ti saluto. Insomma, qualcosa mi dice che ci risentiremo presto. Va bene, un abbraccio. Ti ringrazio, un saluto. A presto. Dai, un abbraccio, ciao. Ciao. Allora, 18 e 19 minuti, insomma, lo passiamo a mandarvi questo podcast di questa trasmissione che vi consiglio, insomma, di ascoltare attentamente. Sono 19 minuti. Sì, ricordiamo pure che anche stamattina, per completare l'informazione, se volete c'è il podcast, c'è della, quindi sul sito del Radio l'approfondimento. Rosa, avete un'altra informazione che la redazione ha fatto questa mattina, e noi vi lasciamo giustamente con questo podcast che vi completa un po', vi complementa l'informazione su questo caso. E allora torneremo in voce chiaramente quando sarà finito. A dopo. Prima di iniziare a riferirci più specialmente per quanto riguarda lo sciopero della fame che viene portato avanti nel carcere di Domokos da parte del detenuto politico comunista Dimitris Koufodinas da 8 gennaio, sarebbe importante e utile dire due cose sulla figura e sul personaggio storico, l'uomo in lotta che costruisse Dimitris Koufodinas. Koufodinas, oggi 63 anni, nato in Grecia settentrionale, a un paese povero a Terni, un paese di coltivazione di tabacco, arriva ad Atene con la famiglia e in quella ondata di immigrazione interna all'inizio degli anni 70. E quando la sua famiglia, da una famiglia agricola, diventano operai industriali alla capitale greca ad Atene. Finisce la scuola al quinto ginnasio nel quartiere di Exarchia e dopo gli esami riesce anche a entrare al Dipartimento di Economia della Facoltà di Legge qui ad Atene. E come scrive anche lui nella sua nota biografica, le necessità della lotta e la clandestinità non le permetteranno di laurearsi. Agrotes che exomaghi. Dimitris Koufodinas, nell'estate del 2002, è il membro della 17 novembre e dopo uno scoppio accidentale al Pireo si inizierà la fine per questa organizzazione comunista combattente che per molti anni ha lottato in Grecia, ha combattuto contro lo Stato, il capitale e l'imperialismo. E Dimitris Koufodinas sarà costruito dopo alcuni mesi di latitanza, sarà lui che assumerà la responsabilità politica di questa attività combattente, da quella sua scelta di vita e di dignità, come scrive anche lui, diventerà anche, come si può capire, un bersaglio preferito per una intera classe politica e tutta l'elite interna e estera del paese. Ora, Dimitris Koufodinas, dobbiamo ricordare, si trova nelle carceri greche dal 2002, è quasi sempre in condizioni speciali, è comunque una figura molto preziosa, molto particolare per il movimento rivoluzionario antagonista greco. Un detenuto politico simbolo, bersaglio per tutti questi anni, per l'intero sistema politico borghese, per lo Stato, ma anche per l'imperialismo americano e quello europeo. Ora, per quanto riguarda lo sciopero della fame che viene portato da lui da alcuni giorni fa oramai, e mentre si trova già in situazioni, diciamo, di salute assai critiche, dobbiamo ricordare il fatto che il governo neoliberista di estrema destra, il governo di Mitsotakis, fedele, diciamo, nella linea già annunciata, ha fatto di tutto anche a livello di cambiamenti delle leggi per vendicarsi contro questo detenuto politico come Dimitris Koufodinas, ma non solo contro di lui, contro, diciamo, tutti i detenuti politici, tutti i compagni anarchici e anarchiche, comuniste e comuniste che si sono trovati e si trovano finora nelle galere greche sotto un regime, diciamo, di eccezione e di illegalità in diverse occasioni, in un regime di eccezione non dichiarato ufficialmente. Così, con questa nuova legge, Dimitris Koufodinas si deve in pratica tornare di nuovo in condizioni speciali e non essere più in un carcere agricolo come quello di Cassavetia di Vollos, dove si trovava durante gli ultimi 2 anni. L'hanno trasferito illegalmente in pratica, perché anche secondo le loro leggi prima doveva, in ogni caso doveva tornare al carcere di Korydallos, dove si trovava fino 2 anni fa, per continuare a contare la pena secondo la nuova legge contro i detenuti politici, contro, ovvero contro quelli condannati con reati della legge antiterrorismo. Quindi ci troviamo in una situazione che Dimitris Kufondinas per ancora una volta mette davanti, mette in prima fila il suo corpo stesso contro la vendetta, contro l'accanimento della sua persona da parte dello Stato, del Ministero della cosiddetta giustizia e dell'ambasciata americana. Ricordiamoci che era nell'ultimo sciopero della fame che aveva fatto Dimitris quando ancora era al governo la cosiddetta sinistra di Syriza, quando Dimitris aveva ancora una volta, con la lotta e la solidarietà del movimento, avere il diritto, come per tutti i detenuti, di avere alcuni permessi di uscita di pochi giorni, tagliati anche questi, e adesso lo vogliono far seppellire di nuovo in condizioni speciali che costruiscono un attacco più generale, non solo contro lui stesso. Όταν η νύχτα πυκνώνει παντού, σκοτάδια τρυπώνουν στο νου, βαραίνει η πλάτη απ' τους καημούς και η ζωή ξεθοριάζει. Dobbiamo ricordare il fatto che attualmente dall'estate, da un anno e passa oramai in Grecia, la famiglia del primo ministro Mitsotakis, la famiglia proprio politica borghese, quella che si trova da decenni in prima fila della cosiddetta linea di fermezza nella lotta antiterroristica. Dobbiamo ricordare la situazione più generale nelle carceri greche, con la situazione veramente drammatica con la pandemia e la gestione criminale da parte del potere, dello Stato. E per quanto riguarda questa lotta del compagno, già dal primo giorno che Dimitris con una sua lettera annunciava l'inizio dello sciopero della fame, la quale la concludeva con queste parole: dato che insistono sulla legge che è stata così provocatoriamente approvata, devono applicarla, almeno questa, e riportarmi nel seminterrato dei carceri di Korydallos, nell'ala speciale costruita dal Ministero della Repressione Chrysochoridis per seppellire la 17 novembre, e dove ho trascorso 16 dei miei 18 anni in prigione. Il carcere di Korydallos è il carcere che si trova ad Atene, dove è stato effettuato il processo speciale contro il 17 novembre, in una aula costruita appositamente nel carcere di Korydallos. Dopodiché per anni Dimitris Kufondinas, ma anche altri detenuti politici della 17 novembre, ma anche anarchici e altri accusati per reati associativi e di terrorismo, si sono trovati rinchiusi. Όταν μας διώξανε ξανά από τη δουλειά. In pratica, carcere speciale ufficialmente adesso, secondo le leggi in Grecia, non dovrebbe esistere. Il carcere di Domokos è nella Grecia centrale, isolata, diciamo, in mezzo del niente, una costruzione relativamente nuova, dove in pratica funziona già come un carcere speciale, anche se non dichiarato, voglio dire, dove non per caso sono rinchiusi anche l'anarchico e membro dell'organizzazione Lotta Rivoluzionaria Nikos Magiotis, il compagno anarchico Giannis Dimitrakis, ma anche diversi detenuti, diciamo, comuni, sociali, che secondo il ministero, secondo il dipartimento penitenziario, devono avere un trattamento differenziato, anche se non dichiarato. Del carcere finora ci sono diversi compagni, ma anche detenuti, voglio dire, sociali, che sono espressi a fianco di questa lotta, è l'occasione di dire anche che la situazione è difficile anche con la gestione della pandemia, ci sono stati già dei morti anche nelle carceri greche, c'è comunque un trattamento speciale con trasferimenti in carceri lontani dalle abitazioni, con un trattamento comunque con continui divieti, specialmente per i detenuti politici, ma anche per tutto, diciamo, i detenuti non allineati alle direttive del carcere. Quindi è importante da dire anche che questo sciopero della fame avviene in un momento assai duro, pesante per quanto riguarda le condizioni per tutti i detenuti nelle carceri greche. Inizio di questo sciopero della fame, ad Atene diverse realtà di compagni anarchici, anarchiche, comuniste e comuniste si sono riuniti in assemblea di solidarietà, e per martedì prossimo 19 gennaio è annunciata una giornata di solidarietà e di lotta, per cui ad Atene è stata indetta una manifestazione a Propilea, al centro di Atene, e già durante questi pochi giorni trascorsi ma così critici per la lotta e per la vita stessa del compagno si sono già fatti vedere diverse espressioni di solidarietà, testi ma anche scritte, attacchinaggi e diverse azioni nelle città sotto lockdown a fianco del compagno. Difficile, perché comunque, diciamo, pure ieri che hanno votato una legge che si hanno costituito la polizia universitaria che sarà dentro le facoltà senza armi, tra virgolette, e comunque c'era una manifestazione indetta da studenti a Propilea, è stata bloccata, caricata con lacrimogeni, se non sbaglio non hanno fatto arresti, qualche fermo però hanno lasciato dopo i fermati. Quindi vediamo come sarà anche per martedì. Comunque la situazione è difficile perché siamo in lockdown a livello anche di sit-in, cortei, interventi del genere. Qui almeno si cerca di effettuare le cose in un modo, sa, con mascherine e tutto, cercando di avere tutto quello previsto per proteggersi a livello di Covid eccetera, però comunque ci sono le multe di 300 euro che già centinaia di compagni e compagne da diversi interventi, cortei da 17 novembre, 6 dicembre si stanno già, diciamo, accumulando molte migliaia di euro in multe varie, e quindi sì, vediamo. Novembre ci sono ancora anche altri detenuti in carcere, come Giotopoulos per esempio, che è anche un detenuto assai anziano. Dobbiamo anche ricordare Savas Xiros. Savas Xiros sarebbe il membro del 17 novembre pluriferito gravemente al Pireo quella notte del 2002, che vive da allora in pratica in condizioni fisiche veramente disperate in carcere, senza poter avere magari una detenzione magari alternativa. Dalle ultime azioni dell'organizzazione, dopo i due processi, oramai voglio dire sono passati quasi 20 anni, e ha comunque influenzato e segnato la storia, diciamo, politica del paese da fine della dittatura Ricordiamoci la prima azione del 17 novembre al 1975, ha colpito, hanno eseguito il capo della CIA qui ad Atene, fino a quelle notte di estate al porto di Pireo al 2002, in un'azione di solidarietà con i lavoratori del porto in sciopero, ha segnato in diversi modi, diciamo, la storia di questo paese. Non è casuale, Dimitri Skoufoudinas, è molto importante questo secondo me da ricordare, perché vengono magari votate anche leggi per far avere condizioni più difficili per lui, perché ha assunto la responsabilità nei processi, ma anche con tutta la sua presenza a livello, anche durante tutti questi anni Dimitris ha scritto molto, ha tradotto libri, ha sempre fatto interventi per quanto riguarda quello che succede in questo paese, che anche più in generale, vedendo, leggendo qualcuno la storia del paese, ma anche del 17 novembre, in pratica le questioni, diciamo, si trovano ancora tutte qui. Per esempio si può ricordare dalla presenza americana e delle basi NATO e di tutta la questione con la Turchia e la situazione di guerra, fino alle questioni, diciamo, dell'economia, del crollo dell'economia greca, quello che si è vissuto durante gli ultimi 10 anni, che magari leggendo qualcuno testi e rivendicazioni della 17 novembre negli anni 80, anni inizi anni 90, si vedeva già magari una analisi che portava a questi risultati che abbiamo vissuto e viviamo fino oggi. Voglio dire, in ogni caso nessuno non può negare il ruolo, diciamo, di questa organizzazione in tutto l'evolversi più generale del paese, più in particolare anche del movimento, diciamo, rivoluzionario, autoritario oppure antagonista, come lo vuole qualcuno chiamare, come anche il fatto che Dimitris Skoufoudinas è più in particolare il suo percorso personale, anche l'assumersi di tutto questo bagaglio e di tutto questo, diciamo, percorso politico. La responsabilità è quello che lo porta a trovarsi proprio adesso a lottare con lo sciopero della fame contro, diciamo, un accanimento spudorato da parte dello Stato. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο, στο άνοιγμα του τσαντιριού, αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στην πασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα με τα νύχια πηγμένα στην πέτρα. Μιλάνε δίπλα στα μάτια τους, έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους, που δε σηκώνει τα δικό. Bravo. 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora, torniamo in voce. Indubbiamente sì, ci abbiamo una sorpresa. Sì, allora, no, io vorrei chiudere la questione Radio Canne dicendo che comunque sì, è stata veramente un arricchimento, che insomma, questo link adesso casomai lo condivideremo anche nel certo, nel direi casomai aggiungiamo al post che già c'è sul sito della certo, radio, anche questo link, di modo che possiate riascoltarlo, visto che poi noi, ecco, non è che abbiamo aggiunto particolarmente di più, quindi sul sito della radio potete sentire di nuovo la storia di Dimitri, così come potete farlo dalle altre radio come Radio Cane, per esempio, che ne hanno parlato, ma sicuramente noi terremo alti i microfoni, le onde e le antenne su le condizioni di Dimitri, che appunto sono assolutamente gravi davanti a una situazione, ricordiamo, di uno stato greco, di una tra virgolette giustizia greca, che ti dice o chiedi perdono oppure la scelta sarà tua, quella di aver scelto lo sciopero della fame. Insomma, torneremo quindi a parlarne, teniamo alto l'ascolto. Intanto io vogliamo chiudere intanto con una musica e poi torniamo casomai a fare questo sì, piccolo ci sarà stacco musicale. Un piccolo regalo da Victor per gli ascoltatori e le ascoltatrici, e dopo torneremo per praticamente i saluti, qualche cumbia in più o cosa ma del sì, genere. Ma sì, facciamo un po' di compagnia. Ma sì. Infatti ci abbiamo tempo ancora. Poi come al solito tabula rasa verso le 20. Esatto così. Victor, allora ci siamo? Allora, 1, 2, 3, musica, maestro. Ahora sí. Vamos a comernos la carne hasta los huesos. Vamos a chupetearnos el fémur y el pescuezo. Vamos a divertirnos con el intestino grueso. Y si nos desangramos, estamos enamorados. Llevo unos días analizando la necrocumbia criminal. Este canibalismo lírico, ahí me va a asesinar. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Abajo la policía, abajo la policía. Vamos a comernos la carne hasta los huesos. Vamos a chupetearnos la tibia y el cerebro. Vamos a echarnos salsa, salsita en nuestro cuerpo, como los fideos que nos comimos en el almuerzo. Llevo unos días analizando la necrocumbia criminal. Eso chinito. Este canibalismo lírico, ahí ya me asesinó. Son primates. Llevo unos días analizando la necrocumbia criminal. Este canibalismo lírico, ahí ya me asesinó. Insomma, non so se dai, si sentiva, forte. No? Questo era live, il nostro Cino live, il nostro Cino live, sì, un concerto. La sera da in concerto. Vi mancano i concerti, vi stiamo facendo un concerto, quindi questa era una base, il grande Victor al microfono. Ma che volete di più? Informazione, musica, musica dal vivo, ma che volete di più? Ci dovrebbero pagare per fare questo. Infatti, però, qualche spiccetto, così compratevi quei bei bene dindaroli, come si dice a Roma, parliamo anche un po' romano qua, questo spagnolo, rigami, state veramente... non mi colonizzate, sì, qua a Roma sì, non ci capiscono quei bei dindaroli fatti come quelle coscette col pirulino sopra, con quel taglietto lì che ti diceva dammela sta monetina, si spicci che te cascano ogni volta che la sera embriaco te levi i pantaloni e poi quando vai al bagno scalzo quella monetina che ti si attacca sotto al piede fredda, mettila in quel salvadanaio e ogni fine settimana dici guarda 5 euro per andaruzza mi sono usciti fuori tutte le sere nel spiccetto 5 euro a settimana, sì, cerchiamo per di mettere questo che stiamo a fare così, capito? Ma anche 5 euro al mese, ma dai, va benissimo, è chiaro, stiamo ridendo, però così piccole situazioni a me mi succede, perché poi ho questi pantaloni sempre poi con le tasche bucate, a me vanno pure così, mi trovo le monete nelle ginocchia, ma anche perché va fatta così Radio Onda Rossa da 40 anni, si tratta di quello, esatto, cioè, il rapporto e far capire come già l'hanno capito, non c'è bisogno che lo dica io, gli ascoltatori e le ascoltatrici, che abbiamo bisogno di loro, il rapporto è quello, e dare il sostegno, dare l'appoggio a una radio che altrimenti non ce la farebbe a campare, perché è difficile, e addirittura stiamo passando da un anno, lo sapete, una situazione di pandemia, sì, perché poi per noi collettivizzare, diciamo, noi stranamente poi qui voi non ci vedete, no? È divertente questa cosa, ne parlavamo così dopo tanti anni che tu incontri le persone che riconoscono la tua voce, quindi anche per noi così renderci conto che effettivamente poi fuori voi non sapete neanche come siamo fatti, poi di botto noi facevamo i concerti, no? Quindi o invisibili oppure in mille a vedere il concerto della radio, e quelli erano i momenti in cui noi un po' ci vedevate in faccia, quando facevamo le sottoscrizioni, il famoso discorso sul palco prima di ogni concerto, che prima noi veramente ci prendevamo a spintoni uno per l'altro, uno con l'altro, perché sappiate che per esempio stare dietro questo microfono è pure il fatto che c'è la sicurezza che nessuno te vede. Non la magia della radio. No, vabbè, non è proprio così, però insomma, diciamo che... Però ci manca quel momento comunque, di confronto. Comunque da stare qui a stare su un palco non è proprio la stessa cosa. Ma certo, e manca, dico, per qualsiasi radio come Radio Onda Rossa, manca quel momento di confronto sempre con il pubblico, con gli ascoltatori, con le ascoltatrici, perché quella era la possibilità di confrontarsi, di conoscersi. Sì, e poi era quel modo di esprimerci umanamente invece di andare oltre questi vetri, queste finestre, queste mura che amiamo, che però insomma invece per la prima volta, ecco, eravamo là, ci vedevamo e chiacchieravamo, e voi eravate così, e grazie radio per questo concerto, capito? Insomma, anche noi siamo felici di averle fatte tutte queste cose, e ci mancano tanto, tanto, tantissimo, tanto, ci manca ballare, anche il fatto che poi ballare, si balla, vabbè. Si balla a Roma, perché ho visto che, balla, che la balla. Gente è come che si ferma. Dipende, sì. Chissà dopo sta cosa che è successa, che non voglio manco nominare, balleremo di più perché ci è mancato tanto. Questa è una speranza che tengo nel cassetto, non lo nego. Ecco. Spero di sì. E anche chi non ha mai ballato non vedrà l'ora di muoversi in qualsiasi modo, capendo che va bene anche quello. Però questo per dire che è anche una grossa fonte dei nostri introiti, dei soldi che c'entravano e che ci aiutavano ad andare avanti, ahimè non c'è più. E che noi non ci va di organizzare cose di nascosto e a rischiarcela, perché noi abbiamo cura di tutti e tutte, uno dell'altro, abbiamo rispetto di qualsiasi paranoia qualcuno ognuno abbia, perché pensiamo che è un momento dove ognuno dice la tua e quella va rispettata, perché vai a sapere, insomma, è un momento così. Quindi casomai vi chiediamo più aiuto dei microfoni, vi attappiamo più questi 5 minuti di Manfrina per dirvi che ahimè qua c'è bisogno di voi. Certo, sì, infatti guarda, lo stesso discorso facevo io nella Radio Compagna Argentina FM in Transito, a chi mando un saluto anche se non ci ascoltano, per dire ogni volta che facevamo questi discorsi, no? Perché ovviamente le radio comunitarie, le radio cooperative vanno avanti grazie all'aiuto di chi le ascolta, era, non stiamo chiedendo, questo scontatissimo, ma lo chiarisco, non si chiede carità, si chiede solidarietà. Qual è la differenza? Qual è il rapporto che una radio come Radio Onda Rossa è complicità addirittura, quello è il rapporto che una radio come Radio Onda Rossa cerca di stabilire con chi le ascolta. Direi, per non annoiare, visto che abbiamo preso un ritmo da paura, DJ Victor sicuramente c'ha qualcosa pronto, tu le fai il il segno e lui c'ha qualcosa pronto. Sì, infatti non mi deluda mai. Ormai. Sì, io invece non ci ho mai capito per quella neanche di salvezza. Dire un bacio per Ari. Per un bacio per Ari. Sì, arriverà subito questa vita. Tanti auguri a Anna, che oggi stiamo nel compleanno. Auguri Anna. Sì, e un saluto alla mia famiglia che ascolta dal Cile. Dai, ciao famiglia del Cile, sì. De Valparaíso, sì, giusto? E ascoltiamo una canzone che si chiama Un día de tus días, che è de Los Jaivas, però questa è la versione di La Chicha y su Manga. Dai. Quindi, un día de tus días. Un día de tus días. Amor, amor, consentimiento, con amor y cariño. De tu boquita, no puedo ya vivir sin tu cariño, por haber conocido, no puedo ya vivir sin tu cariño, por haber conocido, un día de tus días, por haber conocido, un día de tus días, por haber conocido, quizá, quizá no pueda yo partir, por haber conocido, quizá, quizá no pueda yo partir. Por haber conocido al Gato y al Gabriel Parra en las alturas. ¡Sorrilla! ¡Bosa, bosa! Por haber conocido un día de tus días. Por haber conocido un día de tus días. Yo puedo ya vivir sin tu cariño. Por haber conocido, no puedo ya vivir sin tu cariño. Por haber conocido la miel de tu boquita. Por haber conocido la miel de tu boquita. Por haber conocido. Bonita la Chicha y su Manga, me gustó. Bonito, muy bonito. Así la dedicamos a Eddie, a Edith, a Eddie, a Amelia Reina, Felipe, a toda la familia ahí grande de Revivia, con amor. Saludamos a todos los latinos y a todas las latinas que escuchan esto. Claro, cómo no. Un saludo. ¿Y qué vamos a escuchar más? Muchacho provinciano. Ay, vamos, chacalón. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo. Para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, te canta Chacalón y la nueva crema. Patatas, patatas, mis hombres. feliz seré. Muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre. Ecco, io perché sono su 19 oggi fisso? No, 18, perché noi hai fatto il cambio. 31 hai fatto il cambio. 42. 18, sì, giocavo. Morra. Vabbè, 18:57 minuti ancora. Bene. Degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mitica, scarcerando, non ve ne parliamo più perché è finita, raga, quello è un altro brindisi un po' che vogliamo non fare. Ne abbiamo parlato. Non riusciamo a farlo, questo brindisi, nel senso che è chiaro che siamo felici. E insomma diciamo che poi c'è tanta richiesta ancora, quindi siamo ancora più felici, ecco. Dai, è grande, diciamo così, però da vendere a voi fuori non c'è più, no, purtroppo è andata, però è una cosa positiva questa, da una parte sì, da una insomma, parte è una cosa positiva perché vuol dire, sì, che c'è stata una risposta e che... è stato anche imparare che insomma l'anno prossimo dai, quelli sono i problemi che uno si vuole porre, no? Vabbè, avanti, diciamo che siamo in un anno di tante novità, raga. È inutile, ma questo senza dubbio, quindi insomma anche per noi questo è stato un anno di novità, è andata così, siamo tutti felici, ci sono ancora in calendari però credo, quindi bene, quello se lo volete sempre, bene, un altro modo così per lasciare pochi soldi, cioè, insomma, anche perché siamo appena a febbraio, quindi il calendario direi che anche sì, fino infatti, a marzo lo puoi comprare, dai, così che è un manifestino, no? Da mettere lì, lo attaccate dietro la porta, quindi... poi fate il cerchietto al giorno che ci avete da fare, voi segnate, che ne so, questo è il giorno che devo risottoscrivere a Radio Onda Rossa. Se lo comprate, se lo comprate in questi giorni, per esempio la domenica potete segnare perché c'è una, per esempio una trasmissione ovviamente anniversario, esatto, rispetto a quello che è successo a Genova vent'anni fa. Vent'anni fa, sì, è vero, ricordiamola, inizierà questa domenica, insomma sarà interessante quantomeno, per, io credo per tante persone giovani anche sarà un modo veramente di snocciolare tutta quella che è stata l'informazione, la grande organizzazione, auto-organizzazione che c'è stata in quell'evento. E parlare di questo anche, si è parlato tanto della violenza, che non è che non ne bisogna parlarne, però non deve rimanere neanche l'unico patrimonio. È chiaro che poi bisogna dare valore alle cose, figurati, e ancora non è finita per tante e tante che stanno pagando. Dopodiché è vero che appunto secondo me è bello anche riparlare di tanta organizzazione che c'è stata, d'organizzazione, di quanto ci sono stati dei cambiamenti di informazione, di quanto delle cose, credo che anche questo sia molto bello da fare e si comincerà appunto. È importante segnalare quelle cose, le positive pure, io per quello che ho letto, non direi studiato, ma sì, quello che ho letto, uno conosce, purtroppo in tanti aspetti Genova è stata una sconfitta per una generazione. Però è per questo motivo, giustamente per questo motivo, è importante riscattare e parlarne ancora delle cose positive, delle esperienze positive come questa dell'organizzazione collettiva di tante radio che hanno fatto veramente informazione alternativa, controinformazione, chiamatela quasi come volete, per una informazione veramente fatta dal basso, dai compagni e sì, le guarda, compagne. Poi è andata oltre la radio. Perché a Genova è stata secondo me anche appunto quell'esplosione di quel mondo che cominciava a crescere dell'immagine e che poi è stato un lavoro collettivo anche che è stato utile, intanto lavoro che poi c'è stato da fare dopo nella nella digestione della bestia, non so come dire. Comunque, insomma, questo solo per darvi alcuni spunti questa domenica di quello che inizierà questa domenica. Sognatevi le domande, non so come dire, le interazioni da fare, perché è comunque anche su questa cosa di è stata una sconfitta, se ne parla tanto, se ne è parlato tanto, insomma, sì, quello che tu dici ha pesato, certo, figurati, abbiamo e questo lo posso dire, certo, mi permetto ha lasciato di dirlo, un segno io enorme. Almeno mi permetto di dirlo perché ho capito quell'interpretazione da compagni e compagne che ho conosciuto in questo periodo. Non è che è una cosa, voglio dire, che mi sono inventato, se una conclusione alla quale arrivo in questo senso. Però per questo motivo dico si devono riscattare le altre cose che ci sono state pure. Esatto, non è che è finita là. Non si deve prendere solamente come una. Esatto, torneranno appunto poi tanti personaggi, tanti protagonisti. Anche se è stata una sconfitta, al massimo si dovrà imparare, dico. No, ma infatti ma secondo me sarà, secondo me queste trasmissioni, secondo me saranno anche il momento di riparlare, certo, molto tutto, di ripercorrere anche tanto dibattito tra di noi. Quindi, certo, secondo me sarà importante. E quindi questa domenica io direi che con questo chiudiamo, anche se poi casomai continuiamo a mettere un po' di musica. Sì, però dopo viene il plus. Esatto. Però intanto ufficializziamo la chiusura della Schiena del Sol, come sempre, facendo un saluto particolare a tutte e tutti coloro che non hanno, che non possono godere della propria libertà. Noi, come sempre, gli mandiamo un saluto particolare. Marici Weu. Allora, alla prossima settimana. A giovedì prossimo.